Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, le storie grandi e piccole che ci parlano dell'Italia in controluce. La scuola è bella, la scuola è brutta, dipende naturalmente dal punto di vista dei ragazzi che la frequentano a volte, però la scuola non può proprio essere. Accade agli studenti disabili perché non sempre per loro è possibile superare le difficoltà che ci sono, difficoltà logistiche, emotive, a volte la mancanza di insegnanti o di sostegno. Due storie in Sardegna e in Calabria, storie di solidarietà. Come ogni venerdì, oggi è l'appuntamento con la scuola e con Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Silvia di Narcao in Sardegna, 16 anni, frequenta la terza liceo dell'Istituto Minerario di Iglesias. La frequenta nonostante una malattia degenerativa che la inchioda al letto ormai da tempo. Infatti la sua scuola, la sua classe, a trasferirsi ogni giorno nella sua cameretta. Ed è per questo che l'Istituto Tecnico Industriale Minerario Asproni di Iglesias ha ricevuto un riconoscimento speciale dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, la FISH, che qualche giorno fa ha premiato i vincitori di quest'anno del concorso Le Chiavi di Scuola. Migliaia le segnalazioni arrivate su scuole virtuose che davvero si fanno in quattro per garantire a tutti il sacrosanto diritto allo studio. Walter Pagano è l'insegnante di sostegno della classe di Silvia, studentessa di una scuola davvero molto speciale. Molto speciale in quanto appunto si è iscritta questa ragazza disabile, non ha la possibilità di seguire le lezioni direttamente a scuola e quindi la scuola ha messo in essere questo progetto di istruzione domiciliare per cui Silvia, la ragazza appunto in questione, segue le lezioni direttamente da casa sua in videoconferenza. Quindi i professori fanno normalmente lezione in classe. Esattamente. Silvia può seguire dalla prima all'ultima parola insieme virtualmente, quantomeno ai suoi compagni, tutte le lezioni? Esattamente, virtualmente per quanto riguarda le lezioni, poi naturalmente per mettere in atto quei processi di inclusione che comunque tutti i ragazzi disabili a cui hanno diritto naturalmente, una volta alla settimana, almeno una volta alla settimana, un docente curricolare assieme a 3-4 compagni vanno direttamente a casa sua. Un pezzetto di classe si trasferisce a casa di Silvia. Mentre invece l'insegnante di sostegno, che per 4 giorni alla settimana va a casa sua, si trasferisce invece a scuola. Quindi Silvia segue tutte le sue belle lezioni da casa ogni giorno tramite questo computer. E poi una volta a settimana ha i suoi compagni a casa sua, nella sua stanzetta. Esattamente. E qual è il risultato? Come va Silvia a scuola? Guardi, Silvia, diciamo che è stata promossa sia in prima che in seconda con la media dell'8. Teniamo in considerazione il fatto che segue la programmazione curricolare, non segue una programmazione differenziata. Quindi da quel punto di vista non ci sono assolutamente, diciamo, vantaggi, tra virgolette. Ecco. È bravina proprio di suo. Assolutamente sì. Una ragazza piena di voglia di fare. Quanto è importante per lei anche che questi suoi compagni non la lascino sola, insomma una volta a settimana stiano lì con lei e che, come dicevamo, un pezzetto di classe si trasferisca a casa sua? È una cosa fondamentale in quanto altrimenti la lezione così rimarrebbe sempre una cosa virtuale, mentre invece toccando con mano appunto i compagni, anche per lei praticamente la scuola è una cosa reale e quindi si rende conto che cioè il mondo non è solo quello delimitato dalle quattro pareti della sua stanza. Ecco, anche scuola, perché educazione alla cittadinanza si fa anche così. Assolutamente sì, e questi ragazzi hanno bisogno di aiuti, non aiuti del tipo pietistico. Esattamente. Hanno bisogno di queste cose per farli esprimere, per far esprimere loro le loro capacità che sono, certe volte sono inaspettate. Da Iglesias a Catanzaro, qui non è stata la scuola a ricevere il premio, anzi, è stata invece un'intera classe, la terza F dell'Istituto Comprensivo di Catanzaro, che per un compagno affetto dalla sindrome di Down, Manuel, ha preso una decisione molto coraggiosa. Vincenzo Nocera è il papà di uno dei compagni di Manuel. Si doveva organizzare una gita scolastica, è arrivata dentro la classe la direttrice di questa scuola e praticamente, non facendo rientrare dalla pausa il ragazzo Down, Manuel, ha detto ai compagni che per la gita il loro compagno gli avrebbe creato problemi, gli avrebbe creato disagi, e quindi era il caso che Manuel non andasse. Giustamente i compagni si sono un attimino guardati tra di loro, non hanno saputo dare una risposta immediata perché fa 13 anni, però dopo 10 minuti che la direttrice è uscita si sono coalizzati tra di loro e hanno detto: no, se non viene Manuel non veniamo, non andiamo nemmeno noi. E così è stato, hanno rinunciato praticamente alla giornata, restando accanto al loro compagno. E la scuola come ha reagito a questa singolarissima forma di protesta? Forse in una doppia maniera, no? Nel senso che i professori non sono stati accanto ai ragazzi, ma si sono, hanno fatto come Ponzio Pilato, se ne sono lavate le mani, non è colpa nostra, non stiamo né da una parte né dall'altra. Alla faccia dell'educazione civica. Alla faccia dell'educazione civica, sì. Tant'è vero che praticamente i ragazzi sono rimasti un pochino da soli a questa situazione, anzi c'è stata addirittura qualche professoressa che ha cercato di avvicinare i ragazzi anche con tono minaccioso, no? Dicendo che la direttrice aveva ragione, che praticamente ci poteva essere questa situazione che non era per loro bella. Quando i ragazzi hanno fatto capire che erano fermi su questa posizione, e quando poi il provveditore ha mandato un'ispezione, si è successo che oggi qualche professore dice: sì, però il merito di quello che è successo nella scuola è merito anche nostro, perché siamo stati noi ad educare questi ragazzi al comportamento, eccetera. Io penso che sono appropriati di un comportamento virtuoso. Sì, si sono appropriati di un comportamento virtuoso. Anche perché stiamo parlando di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, quindi che non ha particolare necessità poi di controllo, è un ragazzo autonomo. Certo, è un ragazzo autonomo, un ragazzo che partecipa alle attività scolastiche, insomma, certo. Che rapporto ha con i suoi compagni? Con i suoi compagni, guardi, ha un rapporto dalla prima elementare, quindi immagini un pochino quello che sta succedendo oggi, che i ragazzi, essendo in terza media, sanno che un altro anno non saranno più compagni di classe con Manuel. È diventato quasi un fratello. È diventato quasi un fratello, tant'è vero che al suo compleanno mia figlia gli ha proprio preparato un video con tutti i ricordi, e le posso garantire che è veramente emozionante, fa capire quanto bene gli vogliono a questo ragazzo e quanto bene questo ragazzo vuole a loro. Scuole dunque virtuose o obbligate a comportamenti virtuosi, come in questo caso dagli stessi studenti. Ma a che punto siamo nel diritto allo studio degli studenti disabili in Italia, anche in tempi di drastici tagli, come sappiamo, alla scuola? Salvatore Nocera, vicepresidente di FISH. Allora, noi dobbiamo distinguere tra la normativa, che è tra le migliori del mondo, e la prassi applicativa della stessa. Nella prassi applicativa abbiamo alcune scuole che garantiscono veramente la piena applicazione della normativa, malgrado un sacco di difficoltà e di mancata collaborazione di enti locali, soprattutto a causa dei tagli alla spesa pubblica. E invece scuole che, proprio malgrado queste difficoltà, si sforzano per garantire effettivamente l'inclusione, e anche un'inclusione di qualità. Quello che mi ha colpito è che prevalentemente quest'anno almeno i progetti provengono da piccoli centri, il che significa che probabilmente, dati i tagli nelle grandi città, la riduzione dei servizi riduce anche la possibilità operativa e inclusiva delle scuole. Quindi insomma i tagli si stanno facendo sentire? A quello certamente. Non sono tanto i tagli ai posti di sostegno, perché i posti di sostegno sono fondamentalmente attestati sul rapporto 1-2. Non c'è stata una riduzione effettiva, mentre quello che è il guaio grosso è, per esempio, nel superaffollamento delle classi, e questo significa che gli insegnanti di classe hanno difficoltà a seguire contemporaneamente i ragazzini con disabilità e i compagni. Poi ci sono altri aspetti, per esempio quello della discontinuità didattica, e noi abbiamo degli insegnanti di sostegno che cambiano normalmente ogni anno. Laddove invece la presenza di una persona per tutto l'anno sarebbe una garanzia anche di maggior successo. Ma non solo per tutto l'anno, io direi almeno per un ciclo di studi, perché per esempio con gli alunni con disabilità intellettiva di solito ci vuole quasi un anno per ottenere questa sintonia che permette poi la garanzia del lavoro, e alla fine dell'anno questi cambiano poi con l'anno prossimo e si ricomincia tutto da capo. Di solito si tratta di soldi sprecati e di aggravio psicologico per questi ragazzi. È tutto anche per oggi. Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Nene Biacchessi. Vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it. La prossima settimana proseguirà il racconto delle città tramite gli artisti che le vivono. Paolo Fresu ci parlerà della Sardegna, Rocco Papaleo della Basilicata, Mimmo Calopresti della Calabria e Henry De Luca ci parlerà invece di Napoli. Allora continuate a seguirci, l'appuntamento è per lunedì mattina alle 6.30. Buona giornata.